Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno e bentrovati a Fabbrica 2.4. Oggi è sabato 26 settembre e ci occupiamo di un tema che è fondamentale nell'industria italiana, cioè la manifattura additiva. Ne parliamo con due ospiti d'eccezione, con Sandro De Poli, che è il country manager di General Electric in Italia. Buongiorno dottor De Poli. Buongiorno. E con Alessandro Spada, che oltre a essere un imprenditore molto noto con la sua VRV, il consigliere delegato di Asso Lombarda per i temi del manifatturiero e dell'internazionalizzazione, temi che hanno coinvolto gruppi di lavoro con molti imprenditori iscritti ad Asso Lombarda e che il dottor Spada più tardi ci racconterà. Buongiorno. Prima di entrare nel merito della manifattura additiva, io vi volevo dare alcuni dati di una ricerca di Boston Consulting Group sulla value creation. Che cosa ha fatto Boston Consulting Group? Ha preso tutte le società quotate del mondo tra il 2010 e il 2014 e si è chiesto quanto valore sia stato creato dai loro titoli mettendo insieme l'incremento dei prezzi e i dividendi, e è venuta fuori una classifica di 100 società che sono prevalentemente industriali e manifatturiere. In Italia due sole aziende compaiono in questa classifica delle prime 100 società al mondo per valore creato: la Brembo, che ai suoi azionisti ha dato un valore del 44,2%, quindi chi avesse comprato azioni Brembo per 1000 euro nel 2010 oggi si ritroverebbe con 1444 euro, e la De'Longhi, che è la prima in questa classifica tra le società italiane, con un valore del 49,7%. Questo ci dice che l'industria fatta seriamente rende, ma ci dice anche che le società italiane che a livello internazionale spiccano per questi primati sono ancora poche. Sempre tra le società industriali troviamo in questa classifica la IMA, che non è nelle prime 100, ma che comunque si avvicina molto ai risultati della De'Longhi e della Brembo, perché ha un valore creato per gli azionisti del 42,9%, e la Prysmian con il 6,1%. Ma veniamo alla rivoluzione della manifattura additiva, che è nota col nome di stampanti 3D, che è un po' un nome volgare, perché le stampanti 3D sono solo una delle forme, anzi la più semplice, la più casalinga della manifattura additiva. Poi ci sono forme più complesse, come ad esempio la fusione di polveri. Io provo a spiegare in termini semplici che cos'è la manifattura additiva, e poi il dottor De Poli ci verrà in aiuto e mi correggerà se sbaglio. Allora, noi normalmente la manifattura nel mondo, nei secoli, funziona per sottrazione dal pieno. C'hai un pezzo di ferro e lo lavori fin quando non ottieni il pezzo che ti serve. Lo lavori con tecniche come la tornitura e la fresatura. L'additive manufacturing invece ribalta questo concetto. Gli eventi vengono realizzati nel posto in cui servono e la fabbricazione avviene generando e sommando strati successivi di materiale. Insomma, in fabbrica c'è l'addizione al posto della sottrazione. Una rivoluzione copernicana, tanto che si dice che i due trend che stanno cambiando la manifattura nel mondo e anche cambiando la società che sta attorno alla manifattura sono l'additive manufacturing da una parte e la industry 4.0 o internet delle cose dall'altro. Per quanto riguarda l'additive manufacturing, le stime dicono che ci sarà un giro d'affari di circa 100 miliardi di ricavi entro il 2020. Più di questo giro d'affari, però, quello che interessa sono i cambiamenti nel modo di intendere la fabbrica, i cambiamenti nel modo di intendere il lavoro e quindi anche quello che succede nella società circostante, che vengono prodotti da un fenomeno importante come l'additive manufacturing. Ecco, dottor De Poli, l'ho detta bene? L'ha detta bene, decisamente. Ecco, General Electric ha un centro di eccellenza su questi temi che sta a Cameri. Ci vuole raccontare di che cosa si tratta? Certo, si tratta di una fabbrica che è nata circa 10 anni fa, ovviamente ben prima del momento dell'acquisizione di General Electric, di Avio Aero, da parte di General Electric. Ecco, perché è la parte di General Electric che si chiama Avio, che è la vecchia Fiat Avio. È la vecchia Fiat Avio, è stata acquisita circa 10 anni fa, 11 anni fa, da un fondo di investimento. I fondi sono usciti 2 anni fa, quando l'abbiamo comprata noi. Mm-hmm. Abbiamo trovato questo stabilimento che era già avviato, che aveva già un livello di competenza industriale molto elevato in queste tecniche di stampa 3D, per usare un termine appunto conosciuto, di additive manufacturing dei metalli, e questa fabbrica ha messo a punto tecnologie nel mondo dell'aerospazio che fanno vedere di poter raggiungere delle frontiere tecnologiche difficilmente o irraggiungibili con le tecnologie di fusione tradizionale di componenti di particolare criticità come le pale di turbina dei motori d'aereo. Ecco, c'è la fusione di polveri, praticamente un laser scolpisce della polvere di metallo fino a realizzare in tempo reale il pezzo che occorre. Esattamente, diciamo un laser è una delle tecnologie, forse la più conosciuta. L'altra tecnologia che abbiamo trovato a Cameri, meno conosciuta, è quella che utilizza la deflessione di un fascio di elettroni, la tecnologia cosiddetta electron beam, che utilizza questa deflessione di fascio di elettroni per poter scaldare polveri di metallo a temperature ancora più alte, per cui e su strati più significativi, dando al componente realizzato con questa tecnica caratteristiche metallurgiche non ottenibili con tecniche di fusione normali. Ecco, e da quando Avio è entrata a far parte della galassia General Electric, questa eccellenza di Cameri è diventato un punto di riferimento per GE in tutto il mondo? Assolutamente, perché la cosa interessante è che mentre il processo di acquisizione di Avio era in corso, GE aveva acquisito uno stabilimento, un'impresa negli Stati Uniti specializzata in additive manufacturing, che però non ha il perimetro di competenze così ampio come quello dello stabilimento di Cameri. Per intenderci meglio, la fabbrica che avevamo preso negli Stati Uniti era competente solo nel dominio della stampa dei metalli con la tecnologia laser, mentre per il mondo aeronautico la parte forse più significativa è quella invece della stampa con deflessione di fascio di elettroni, cosiddetta electron beam. Ecco, apro qui un inciso per ricordare che General Electric è uno dei più grandi operatori manifatturieri che ci sono in Italia. Intanto ha 13.000 dipendenti, che sono una cifra molto rilevante, e dei 7 miliardi e mezzo di fatturato che General Electric, una delle più grandi aziende del mondo, realizza in Italia, l'80-90% sono generati dall'industria, dalla manifattura, il resto sono servizi, e quindi vale la pena raccontare questa realtà che io mi auguro sarà oggetto di una delle prossime puntate di Fabbrica 2.4. Ma torniamo all'additive manufacturing. Una cosa è General Electric, che probabilmente è la più grande azienda del mondo. Un'altra cosa sono i medi imprenditori meccanici che sono iscritti ad Asso Lombarda e che recentemente si sono recati nello stabilimento di Cameri per vedere come queste nuove tecnologie potevano servire loro. Ecco, dottor Spada, come può essere cambiata la vita di questi imprenditori dalla tecnologia additiva? Dalle tecnologie additive, mi correggo. Ma innanzitutto mi faccia fare una premessa, perché certo, nel progetto dello sviluppo del manifatturiero che abbiamo varato nella presidenza Rocca, uno degli obiettivi principali era quello di cambiare i numeri. Cambiare i numeri soprattutto nel settore manifatturiero, che negli ultimi 20 anni aveva perso delle posizioni importanti in Europa e anche in Lombardia, sia come numeri globali di fatturato e anche in termini di dipendenti. Quindi abbiamo subito lavorato per cercare di capire quali erano le chiavi per poter rendere rendere più competitive le nostre imprese manifatturiere, e uno di questi dei punti che abbiamo individuato è sicuramente quello dell'innovazione, dell'approccio delle tecnologie. Quindi abbiamo operato su due livelli, quello di cercare di favorire al massimo l'incorporazione nelle nostre imprese delle più interessanti tecnologie d'avanguardia e soprattutto poi dopo di valorizzare le best practice e i casi aziendali di successo. Quindi l'operazione che abbiamo fatto, l'iniziativa che abbiamo fatto con General Electric, Avio Cameri, proprio va in questa direzione. Perché l'additive manufacturing? Abbiamo ritenuto che il modo di produzione stessero cambiando e quindi l'additive manufacturing avesse dei vantaggi per le medie aziende, soprattutto perché ha un utilizzo efficiente delle risorse, una possibilità poi di produrre degli apparecchi in piccola serie, di creare degli oggetti che sono on demand, oppure di poter ricostruire delle altre apparecchiature che sono magari uscite di produzione. Quindi questo modo di produrre poteva essere di gran vantaggio per le medie imprese, perché le medie imprese devono sempre cercare dei nuovi mercati, devono cercare di essere sempre più competitive, quindi sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Quindi questa iniziativa che abbiamo sviluppato assieme a General Electric e Davio è stata di grandissimo interesse, perché abbiamo portato una cinquantina di operatori che rappresentavano circa una trentina di aziende ed hanno trovato un interesse molto importante nella fattura additiva, perché non tutte possono applicarla, perché naturalmente non è una ricetta che possa ecco, essere universale, però ha dato degli spunti per poter sviluppare, far crescere il loro business. La devo interrompere perché purtroppo il tempo è tiranno e quindi dobbiamo passare la linea alla pubblicità, ma ci risentiamo fra qualche minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea con Sandro De Poli, numero uno di General Electric in Italia, e con Alessandro Spada, delegato di Assolombarda per l'internazionalizzazione e il manifatturiero, nonché importante imprenditore del settore meccanico con la sua azienda VRV. Stavamo parlando di manifattura additiva, conosciuta al grande pubblico come stampanti 3D, ma in realtà è una rivoluzione molto più complessa e molto più articolata, che va ben oltre il tema delle stampanti 3D. La manifattura additiva accorcia la catena del valore, perché la catena del valore tradizionale abbiamo il progettista che progetta il pezzo viene prodotto in fabbrica, la fabbrica fa lo stock dei materiali, dei pezzi e lo accumula nei depositi, il trasportatore quando il cliente ordina il pezzo lo porta dal cliente, il cliente lo monta. Tutto quello che c'è in mezzo con la manifattura additiva praticamente o si accorcia o viene brutalmente cassato, perché non c'è più bisogno di stock perché si produce in tempo reale, non c'è bisogno di trasporti perché si produce vicino a dove le cose servono, e c'è anche meno bisogno di lavoro, meno bisogno di operai. Quello che conta, abbassandosi anche i prezzi, il vantaggio competitivo è l'innovazione e la personalizzazione, anche perché il costo delle varianti è praticamente pari allo zero. Non è una cosa la manifattura additiva che può funzionare in tutti i settori, normalmente è nell'aerospaziale, nella componentistica automobilistica, in un certo tipo di componentistica automotive ad alto valore aggiunto, nel biomedicale, nel packaging e in alcuni ambiti della moda, per esempio la bigiotteria, i gioielli, i vari accessori. Ecco, il dottor Spada ci stava spiegando come Assolombarda ha fatto incontrare alcuni imprenditori del settore della meccanica prevalentemente con GE per venire a contatto con queste nuove tecnologie. Ecco, io ritengo che questa sia una delle novità più interessanti della presidenza Rocca, perché non è più l'associazione che sta in via Pantano e fa solo convegni, ma anche l'associazione che fa dei progetti immediatamente operativi è di immediata utilità e fruibilità per gli imprenditori che ne sono membri. Ce lo racconta un po' lei, dottore? Certo, è così, ma continua a fornire tutti i servizi che ha sempre fornito nel campo del supporto sindacale, della sicurezza, del lavoro. Però a quello abbiamo aggiunto delle nuove competenze. Abbiamo deciso soprattutto di spostare quelle che sono le nostre forze, le nostre capacità direttamente nelle aziende e soprattutto cercare di replicare un pochettino il modello tedesco, perché da noi le aziende andavano sempre seguendo una certa via, le università seguendone un'altra, i centri di ricerca un'altra ancora. Ecco, noi cerchiamo quindi di mutuare invece il modello tedesco, dove la sinergia è una sinergia forte. Per questo che abbiamo organizzato questo incontro presso Avio, ne abbiamo organizzato un altro, siamo stati anche lì molto con imprenditori, l'abbiamo trovato molto interessante, presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, dove abbiamo parlato sia di materiali che di robotica, presso il Politecnico qua di Milano, la divisione che c'è in Bovisa, parlando di meccanica, perché c'è un centro di meccanica che è di assoluta avanguardia, che era per lo più sconosciuto a molti dei nostri imprenditori, che hanno capito dove potersi appoggiare per sviluppare dei prodotti e dove poter trovare delle competenze che li possano mantenere sempre più con prodotti innovativi. E recentemente anche abbiamo visitato anche quello con grande interesse da parte degli imprenditori che ci hanno accompagnato all'Università di Milano in Bicocca, dove anche lì abbiamo approfondito il campo delle lavorazioni, dei materiali, delle nanotecnologie, tutti i campi dove devo dire tutti gli imprenditori presenti hanno trovato degli spunti per cercare di ampliare quella che è la loro gamma di prodotti, e quello di cercare anche di capire qual è la direzione dove il mondo e la tecnologia si sta indirizzando, perché spesso e volentieri l'imprenditore medio deve rimanere sempre sul ponte di comando, perché deve portare avanti l'attività ordinaria dell'azienda, si occupa di portare a casa gli ordini, di sviluppare le commesse. Ecco, lei in Assolombarda si occupa anche di internazionalizzazione. Certo. Ci vuole raccontare la sua esperienza in questi anni, che cosa avete fatto, pensate di fare? Ma guardi, le aziende in Assolombarda e le aziende direi lombarde, milanesi e lombarde, hanno una capacità di internazionalizzazione molto alta, perché sono già direi quasi una ventina d'anni che il percorso di internazionalizzazione l'hanno affrontato con successo, restringendosi sempre di più il mercato italiano e negli ultimi anni anche quello europeo. Certo. È sempre maggiore la necessità di trovare nuovi sbocchi. Assolombarda quello che ha cercato di fare è di cercare di portare delle competenze, perché le PMI, che costituiscono il 93% degli associati ad Assolombarda, non sono totalmente attrezzate per affrontare nuovi mercati e nuove tipologie di clienti, e di conseguenza abbiamo cercato di dare a loro tutti quegli strumenti operativi, quindi non più business morde e fuggi, ma un'organizzazione che è basata prima su una creazione di reti di agenti, poi degli uffici in logo, poi dopo dei servizi d'assistente, a cercare di strutturare le aziende per poter far sì che il loro business al di fuori del nostro paese possa essere un business di lunga durata, e quindi creare tutte quante le basi per poter far crescere le loro aziende. Quindi certo, non abbiamo fornito dei servizi diretti, perché naturalmente un'associazione non può essere così onnisciente, però abbiamo selezionato quelli che sono quei servizi ad alto valore aggiunto dei quali le nostre PMI possono attingere per poter essere più preparate a combattere la battaglia dei mercati internazionali. Ecco, dottor De Poli, abbiamo appena parlato di Avio, che è diventato un centro di competenza mondiale. Avio è una delle due grandi acquisizioni che in questi anni di storia General Electric ha fatto in Italia. L'altra importante è stata Nuova Opinione di Firenze, e anche lì l'azienda, grazie a General Electric, è cresciuta ulteriormente. Quindi il modo di vostro di intendere le acquisizioni è di far crescere le società che comprate. Non sempre così, ci sono stati in casi di altre aziende acquisizioni da parte di gruppi internazionali che le hanno quasi asfaltate, ma è quasi una fortuna farsi comprare da General Electric. Ecco, intendete proseguire la campagna di acquisizioni in Italia? Ci sono delle società che avete messo nel mirino, pensate di mettere nel mirino altre? Ma guardi, adesso, come ben saprà, probabilmente General Electric è adesso ingaggiata nel completamento della più grossa acquisizione della sua storia industriale, che è quella di Alstom in Francia. Al momento attuale tutte le nostre forze ed energie sono focalizzate nel completare questa acquisizione. Detto questo, GE è sempre attenta a quelle che possono essere opportunità che possono complementare la sua gamma di prodotti, di tecnologie, e fare cose come abbiamo fatto con Pignone e con Avio. Oggi, se mi dovessi chiedere qual è la prossima Avio in Italia, faccio fatica a vederla, ma perché magari non l'abbiamo ancora messa a fuoco quale potrebbe essere. Ecco, ma ci sono dei dossier sulle vostre scrivanie? È più un discorso di opportunismo, di decisioni strategiche che vengono prese a livello mondiale in qualcuno dei nostri businesses e che possono trovare soddisfazione dal punto di vista dell'esecuzione strategica in quella che potrebbe essere una piattaforma industriale basata sul territorio nazionale. Oggi onestamente non abbiamo, come dicevo, stiamo pensando ad Alstom e solo a quello, stiamo facendo la più grossa acquisizione della storia di GE. Ecco, ma l'acquisizione di Alstom avrà anche un impatto sull'Italia in qualche modo? E Alstom ha una struttura in Italia sia nel business ferroviario, che però non è interessato a questa acquisizione, sia nel business dell'energia. E ci sono nel business dell'energia, sia generazione di energia che distribuzione di energia elettrica, ci sono tre realtà produttive e un totale di circa 1000 dipendenti sul territorio nazionale. E che cosa succederà a questi stabilimenti? Entreranno a far parte del perimetro General Electric appena questa acquisizione verrà finalizzata. Abbiamo passato 2 settimane fa una tappa fondamentale del processo di autorizzazione della Commissione Europea. Adesso ci manca l'ultimo dettaglio che contiamo di finalizzare da qui a inizio ottobre. Perfetto. Il tempo è sempre tiranno, quindi dobbiamo concludere qui la nostra trasmissione, ma l'interesse a parlare con questi ospiti è elevato e quindi non mancheranno le occasioni di approfondire ulteriori argomenti. Intanto vi saluto, arrivederci dottor Spada. Arrivederci. Arrivederci dottor De Poli. Arrivederci.